Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Sul tappeto rosso con un abito low cost. Ebbene sì, è successo alla cerimonia degli Oscar. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Se non l'avete letto nelle cronache dettagliate della serata al Dolby Theater di Hollywood, vi svegliamo noi tra poco il nome dell'attrice e del brand che hanno rotto un tabù nel tempio sacro dell'alta moda. Parliamo poi di un colosso canadese che ha costruito la propria fortuna, pensate, sullo yoga. Focus sui trend dedicato invece al foodtainment, la tendenza del momento quando il cibo dà spettacolo e fa tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità della settimana. Ne abbiamo le tasche ripiene. Questo è il nome della campagna lanciata da Slow Food e da decine di osti e ristoratori italiani per dire basta agli scandali alimentari e riaffermare la vera cucina italiana. Fino a domenica 17 marzo nei ristoranti aderenti si potrà assaggiare almeno un primo piatto della grande tradizione italiana delle paste ripiene. Dalle lasagne ai timballi, passando per cannelloni, tortellini e ravioli. Apple si conferma l'azienda più prestigiosa al mondo. A incoronare la casa di Cupertino è l'annuale classifica stilata da Fortune, che vede Google al secondo posto e Amazon al terzo. Quarta Coca-Cola, 12° McDonald's, solo 48° Facebook. Nessuna azienda italiana figura nei primi 50 posti. Se la moda non è solo stile, ma anche costume, e quindi segno dei tempi, il prossimo sarà un altro inverno nero, come il colore dominante delle collezioni viste in passerella nella settimana della moda. Spariti scolli e trasparenze, aboliti i dettagli frufru, la donna del prossimo autunno-inverno sarà severa e rigorosa come i tempi impongono, o in alternativa dark e cupa, tra borchie e aculei. Una notte dedicata alla bellezza, alla moda e alla solidarietà. In occasione del Cosmo Prof, la fiera del beauty in programma a Bologna, il 9 marzo le strade del centro storico si trasformeranno in una passerella per la Beauty in Vogue Night. I ricavati di eventi e oggetti limited edition prodotti per l'occasione saranno destinati al comune di Crevalcore, uno dei centri colpiti dal terremoto in Emilia. Fa la cosa giusta. La Fiera Nazionale del Consumo Critico e degli Stili di Vita Sostenibili compie 10 anni e torna nei padiglioni di Fiera Milano City dal 15 al 17 marzo. La sezione speciale di quest'anno sarà dedicata alla mobilità sostenibile e ospiterà Electro City. Auto, microcar, elettroscooter e moto da provare sul circuito interno. La borsa della spesa. And the Oscar goes to... Un nome su tutti rimbalza in questi giorni nei siti e blog di moda: H&M, il colosso svedese del low cost che qualche giorno prima delle passerelle di Parigi, dove ha fatto sfilare la collezione per il prossimo autunno-inverno, ha conquistato un altro tempio sacro finora accessibile solo alle griffe dell'alta moda. La cerimonia degli Oscar, appunto, alla quale Helen Hunt si è presentata con un abito della Conscious Collection, la linea ecologica del marchio svedese. Un pezzo unico, andate a vedere le foto sulla nostra pagina Facebook, nato dalla collaborazione dell'attrice con l'associazione ambientalista Global Green. Non ci crederesti mai, così Hunt ha risposto alla domanda di rito delle varie TV americane: che abito indossi? What are you wearing tonight? It's a beautiful dress. H&M. H&M? Yes. No. Yes. Really? Yes. How much did it cost you? Accessorized with $150,000 worth of diamonds. Lo avete sentito, discorso a parte, certo, per i gioielli indossati a prestito, come tutte le star, per un valore di $700,000, l'ha dichiarato la stessa Hunt. Resta però il valore simbolico di un'operazione come questa, in tempi di crisi e di sobrietà, di democratizzazione del sistema moda. Ma non solo, le prime ad indossare abiti low cost in occasioni anche ufficiali sono state del resto Michelle Obama e Kate Middleton. Di tutto questo abbiamo parlato con due esperti: Fabiana Giacomotti, storica della moda e del costume, e Antonio Mancinelli, caporedattore di Marie Claire. Ecco che cosa ci hanno detto. L'unica sia discriminante, secondo me, è se l'abito sia bello, ben tagliato, di qualità e stia bene. Questo abito aveva tutte queste caratteristiche, quindi non vedo per quale motivo debba esserci poi tanto da discutere. Ecco, quello che invece mi farebbe discutere piuttosto sarebbe, non so, un utilizzo sfrenato di una quantità di abiti di scarsissima qualità, che è un po' quello che purtroppo spesso si fa seguendo, no, un certo tipo anche di moda, diciamo, fast, quando invece l'unica discriminante appunto dovrebbe essere quella di scegliere la qualità. H&M ha dimostrato, in questo caso però diciamo non era un abito che si può trovare sempre, è stato un abito fatto apposta, era fatto anche per far capire che un marchio mass market come questo è in grado di produrre qualcosa di adatto per gli Oscar. Tra l'altro, altra osservazione, gli abiti degli Oscar sono sempre assolutamente identici anno dopo anno, è addirittura difficile distinguere fra un abito di uno stilista e di un altro, tutti si annullano per dare alle dive degli Oscar quello che richiedono, che sono abiti tutti che hanno due forme, o Barbie principessa del ballo o la sirena, sono tutti abiti fatti così. Quanto è cambiata in questi anni la percezione della moda low cost, in un processo che possiamo definire anche di democratizzazione della moda? La moda, volendo, è sempre stata democratica, persino Coco Chanel ha sempre detto una moda che non scende per strada non è moda. Dagli anni 50 in poi la moda ha iniziato a partire dalla strada. Adesso non c'è più nessuna remora a mescolare un capo importante con un capo appunto che può essere di Zara, come di H&M, come di qualunque di queste catene. Ecco, non c'è più quel timore reverenziale un po' provinciale di dover sempre esibire qualche grifo. Si rumorava già da qualche tempo che H&M avrebbe fatto una collezione cosiddetta red carpet, come facciamo notare i non, come dire, proprio dolcissimi colleghi d'oltreoceano. È molto facile rendere un vestito anche molto semplice e prezioso, perché Alain Hunt, che l'ha indossato, lo ha abbinato a gioielli veri e a diamanti e a scarpe molto costose, a una borsetta estremamente preziosa. È comunque un segno dei tempi. Quello che mi interessa è l'aspetto, come dire, sociologico, il fatto che addirittura in un evento mediatico così importante come la notte degli Oscar possa entrare un colosso della moda low cost, ma sicuramente più vicino a un mondo delle culture giovanili, no? E invece entri così prepotentemente nella cultura ufficiale, l'ho trovato sicuramente interessante. Michelle Obama per prima, ma poi anche Kate Middleton, insomma, sì, avevano dato dei segnali in questo senso. Sì, pensate al fatto proprio politico che Michelle Obama abbia messo la sera del giuramento del marito un vestito che aveva già messo una volta, quindi è dato anche un segno molto normale, no? Di una donna normale che ha un vestito bello e quindi se lo rimette anche più di una volta. E il fatto di scegliere marchi che sono abbastanza accessibili, ma soprattutto sono locali, sono segni di utilizzo anche politico del vestire, e quindi il messaggio è: sono una di voi. Dalla nicchia al successo mondiale, Cristina Lazzati, vice direttore area retail di Business Media, ci racconta la storia di Lululemon. I capi firmati Lululemon sono un must have per i newyorkesi. La catena canadese, pluripremiata per i suoi piccoli negozi, è ormai una tappa obbligata per tutti coloro che hanno scelto yoga e limitrofi per mantenersi in forma. Un altro negozio specialistico, dunque? Non proprio, perché Lululemon si è progressivamente fatta largo anche tra coloro che dello yoga nulla sanno. Il segreto di questo retailer? Persone e organigramma. Due divisioni, una di sviluppo prodotti e una di retail, con una prima linea di senior manager da cui dipendono i responsabili di negozio. A scendere troviamo i commessi, che nel caso della catena canadese si chiamano educator, educatori. Lululemon chiede ai suoi operatori di sposare uno stile di vita improntato sulla capacità di raggiungere i propri goal. Ogni dipendente deve stabilire degli obiettivi di vita che pensa di raggiungere in 10 anni e periodicamente i migliori risultati vengono pubblicati in una bacheca pubblica. Molto del merito del successo di Lululemon in Nord America va anche al CEO Christine Day, ex presidente di Starbucks Asia. Essere e avere. Questo è un pane però, come dire, dell'Alto Adige, no? No, questo è un pane che si ripete regione a regione. È ora di iniziare a lavorare alla torta di Miss Richfield. Io e Mauro prenderemo la crema di burro verde e guarniremo l'albero di Natale. Se sai far bene la spesa, il miglior ristorante del mondo è casa tua. Dunque, arriva il freddo e noi dobbiamo un po' consolarci con qualcosa di molto buono da mangiare. E allora, mettiamoci a cucinare. Di nuovo in studio con Essere e Avere. Era solo un assaggio della buffata che propongono ogni giorno i palinsesti televisivi. Per il focus sui trend di questa settimana parliamo di foodtainment, quando il cibo da spettacolo appunto e fa tendenza. Ne parliamo come sempre con la nostra esperta Patrizia Martello di Memetti Club. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Non solo TV, parliamo anche di blog, social network, film, libri, festival. Il cibo è sempre di più ormai una forma di intrattenimento, ma anche un canale, uno strumento per comunicare il design, la moda, l'arte, la letteratura, la musica. Dal cibo passa in questo momento tutto quello che fa tendenza, e anche nei ristoranti, sulla scia di questo nuovo approccio, le cose sono cambiate. Patrizia. Sì, foodtainment è un mega trend socioculturale. Usiamo questo termine che nasce dall'introduzione nel mondo food del concetto media di entertainment, riferendolo però non solo ai format televisivi, alla grande offerta editoriale, così come alla diffusa generazione di contenuti in rete di food and cooking, tutorial, eccetera, ma a tutto il mondo delle esperienze di consumo legate al cibo in tonalità ludico e intrattenitiva. Nelle librerie, per esempio, è evidentissimo l'ampliarsi dello spazio dedicato alle pubblicazioni culinarie di vario genere. Chioschi ed edicole traboccano di riviste, manuali settimanali, mensili, tascabili, allegati, eccetera. Ma anche nei mondi più di nicchia troviamo pubblicazioni come la Key Peach, sofisticata rivista internazionale ideata da Dave Eggers, l'editore di McSweeney's, quadrimestrale non di settore dedicato a cibo, arte e scrittura, creata dallo chef David Chang e dallo scrittore Peter Meehan, con linguaggio fresco, colorito, autori professionali di vari ambiti, anche molto lontani dal mondo cibo, e una grafica artistica e anticommerciale. Sempre tra le riviste cartacee recenti, in controtendenza al declino della carta stampata, il magazine tedesco Beef, dedicato monotematicamente alla carne e alla tribù dei carnivori maschi germanici. Intrattenitivo, informativo, in questo magazine tutto al maschile, ovviamente si parla anche di vino, di whisky, di ricette e di lifestyle. Passando al mondo digital, le bacheche di Facebook e altri social network si riempiono di scatti amatoriali e non di piatti e cibi, così come di concorsi. Per esempio, la sfida in stile X Factor su Facebook per il lancio di Make Italy, lanciata da McDonald's per far scegliere il panino vincitore tra il Veneto e il Calabrese, le due specialità regionali, di fatto gli sfidanti del simil talent show, e al pubblico del web chiamato a votare il proprio hamburger preferito sulla pagina Facebook dedicata, in palio la possibilità di vincere un anno di pranzi gratis da McDonald's. I food bloggers si contendono oggi il primato di notiziabilità con i fashion blogger, perché oggi il vero fenomeno è appunto l'attitudine al consumo continuo di cibo, anche e soprattutto in termini culturali e di entertainment, e in ogni luogo. Cucinare, così per sé e per gli altri, diventa una sorta di imperativo contemporaneo non solo dei foodies, gli appassionati esperti, ma anche dei semplici buongustai e curiosi. Le cucine delle case, dove già si produce pane, verdura, si alleva la pasta madre, si conservano i vini nei frigoriferi da cantina, dilagano strumenterie professionali, compaiono disinvoltamente anche runner, termostati di precisione per cucinare al forno o macchine per il sottovuoto a campana. Dunque la cucina e la casa, luoghi intimi e privati, si aprono e si legano a nuove formule di socializzazione tutte intorno al cibo. Ed ecco il caso dei supper club, un fenomeno sbarcato anche in Italia. Hidden Kitchen Supper Club di Milano è uno tra gli esempi, il grande fenomeno internazionale delle cene tra sconosciuti in case private, appunto. Regole ben precise sul da farsi e non farsi, chi invita cucina in cambio di un piccolo contributo a copertura delle spese. La formula è convivialità, divertimento, scoperta. La location rimane segreta fino alla conferma della cena, cibo casalingo, esperienza alimentare e sociale inedita. e il social network Gnammo, per esempio, sottotitolo A tavola con noi, non è che una variazione social su questo tema, mangiare insieme per conoscere cibi e persone nuovi. Ma gli eventi, diciamo, a totem cibo sono anche e soprattutto pubblici, altro fenomeno segno del foodtainment non mediale, quello offline, il fiorire di eventi, fiere, festival del gusto, eccetera, che attirano le folle. Alcuni esempi noti sono le Fooding, Identità Golose, Taste of Milano, Taste of London, eccetera, hanno grande risonanza e uniscono degustazione enogastronomica ad esperienze appunto ludico, intrattenitive e anche di apprendimento. Tornando alle trasmissioni TV sul cibo, non possiamo non citare Masterchef, il talent show culinario fenomeno della stagione e grande successo di Sky. Ecco l'intervista realizzata dalla nostra Marta Cagnola a uno dei tre giudici, lo chef Bruno Barbieri. È un programma che ha amalgamato, ha cambiato un po' il modo di fare cucina in televisione e devo dire che è un programma che avrebbero voluto fare in tanti. E nella sensibilità degli italiani nei confronti della cucina? Beh, forse non ce l'aspettavamo neanche noi. Oggi se noi guardiamo Twitter, i grandi social network, Facebook, la gente si racconta, la gente fa le prove, la gente cucina a casa. Voglio dire, questo programma ha cambiato qualcosa, ha dato la possibilità anche a piccoli produttori a cambiare proprio il modo di pensare non solo la cucina ma anche di produrre. Tu hai introdotto il termine mappazzone nel vocabolario italiano, ormai passi alla storia per questo. Beh sì, devo dire che è molto divertente. Il mappazzone non è una parola che mi sono inventato, è una parola che nel bolognese, io sono bolognese, esiste veramente. Cioè il mappazzone sta per, cioè hai fatto una mappazza, hai messo un casino di roba dentro in un piatto e alla fine non sai neanche tu il perché l'hai messa. Io dico sempre solo una cosa: dentro il piatto ci deve essere il tuo io. Patrizia, ormai in TV le nuove star sono gli chef. Sì, ovviamente i palinsesti televisivi sono ripieni di format di foodtainment per una dieta mediatica, diciamo, da obesità. Il re del cioccolato è il titolo, per esempio, del nuovo format in onda su Real Time dal 7 dicembre scorso ed è il racconto del dietro le quinte della pasticceria milanese L'antica arte del dolce, aperta nel 92 da Ernst Knamm. Tedesco, pasticcere, ma soprattutto artista del cioccolato, guida nella trasmissione il suo staff di 12 persone con un piglio molto da caserma più che da pasticceria e realizza vere opere d'arte a base di cioccolato. Altro titolo, Orrori da gustare, Bizarre Foods, protagonista lo chef Andrew Zimmerman, è un programma in stile documentaristico che parla di viaggi ma soprattutto di cucina, è in onda su Discovery e D-Max ormai all'ottava stagione. Come il titolo suggerisce, un viaggio alla scoperta di cibi più strani e improbabili, dalla Cina alla Thailandia, dall'Africa alle Filippine. Si vede il conduttore protagonista che mangia nutri, intestini d'oca, larve dell'albero della noce cocco, sanguinacci, pipistrelli della frutta, un cuore di cobra ancora pulsante e altre simil prelibatezze. E ancora degno di nota Man vs Food, il programma che catarticamente libera dai sensi di colpa e dal crescente sdegno verso il junk food, il cibo a spazzatura. Format americano celebra la maestosità delle porzioni extra large dei fast food. In Italia è attualmente in onda su D-Max e racconta il viaggio di Adam Richman tra ristoranti fast food, chioschi ambulanti e tavole calde d'America. Ogni tappa è una sfida epica, diciamo così, per riuscire a mangiare per esempio 3 kg di panini in un'ora, una mega pizza da 4,5 kg in compagnia di un compagno di mangiate, il panino lungo più di un metro, eccetera. Oggi il cibo è protagonista di una teatralizzazione senza precedenti, dunque parliamo dello spettacolo anche della preparazione, della messa in scena del fare il cibo, non solo nella televisione diffusa, cioè su tutti gli schermi, ma anche nelle case e nei ristoranti. Nei ristoranti appunto le cucine a vista per il piacere di vedere i cuochi spadellare oltre le grandi vetrate sono ormai molto diffuse, ma anche formule come lo show cooking dal vivo con famosi cuochi che fanno un vero spettacolo e ospiti che mangiano e si gustano la preparazione con un'esperienza assimilabile alla transnarrativa cinematografica. E quando le cucine non sono a vista, i ristoranti, grazie a semplici espedienti come un tablet su un tavolo, danno la possibilità ai clienti comunque di guardare in cucina grazie a una semplice telecamera e vedere così la preparazione dei piatti a menù o semplicemente di quelli ordinati. cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo in Olanda su Foodtainment e dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher. Ciao Alessia, ben ritrovata. Grazie, buon pomeriggio a voi. Nel corso dell'ultimo Nordic Film Festival, la città di Haag ha ospitato un temporary restaurant che ha interpretato in modo a dir poco radicale il concetto di self-service. In questo ristorante, allestito all'interno di un teatro e denominato ICA, scritto I-K-H-A, i clienti sono stati invitati a partecipare all'allestimento dello spazio in cui consumare il pasto, a seconda dello stile preferito. Il nome ICA, non a caso, è l'acronimo di IKEA Hacking, ossia la pratica diffusa dell'utilizzo creativo dei mobili IKEA, pratica che le designer dell'Oatmeal Studio hanno voluto riproporre in questo concept innovativo. La dining experience era quindi improntata alla massima personalizzazione e ricalcava la modalità di acquisto tipica dei negozi del noto marchio svedese. All'ingresso le persone, munite di matita e scheda per le ordinazioni, potevano scegliere sì le portate, ma non solo, anche l'arredo, i tavoli, le sedie e la decorazione della tavola. Dalle pareti infatti si poteva attingere a una varietà di carte e tessuti da misurare, ritagliare e posizionare a piacimento, creando un ambiente in linea con il proprio gusto. E a completamento dell'esperienza il pasto veniva servito alla postazione scelta sugli immancabili vassoi. Piccolo particolare, l'IKEA non era coinvolta nel progetto. Grazie Alessia, molto divertente. Trovate le immagini come sempre sulla nostra pagina Facebook. Patrizia, questa dell'intrattenimento, della spettacolarizzazione, per così dire, di una disciplina è applicabile anche ad altri settori? Sì, il successo della formula del foodtainment, che coniuga appunto utilità e informazione ad elementi di puro intrattenimento intorno al cibo, conferma una tendenza rilevata da Aegis Media nel 2012, cioè la maturità di fruizione da parte di spettatori consumatori sempre più consapevoli che l'intrattenimento mediatico si possa adattare ai nuovi trend socioculturali e ai nuovi stili di vita delle persone oggi. Avete ancora visitato, veniteci a trovare sul nuovo sito di Radio 24. Troverete questa e le altre puntate di Essere e Avere da riascoltare e scaricare. Mandateci le vostre idee, i vostri suggerimenti via mail oppure via Facebook, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.